Ma dobbiamo fare anche molte altre cose, perché ci sono anche dei problemi su altri comparti, su altri tavoli come dire, che ruotano intorno al mondo del vino. Lo stesso export, che pure è, come dicevo, fiore all'occhiello del comparto, mostra indicazioni differenziate. Noi siamo molto forti e siamo molto cresciuti sui mercati tradizionali, ma non siamo abbastanza cresciuti sui nuovi mercati. Sui nuovi mercati, in molte situazioni, a partire dalla Cina, siamo in ritardo rispetto ai francesi. Quindi vuol dire che anche lì dobbiamo lavorare. E dobbiamo lavorare, bisogna dirlo, in una situazione in cui scontiamo l'handicap di assenza di catene di distribuzione italiane, di assenza di grandi catene alberghiere italiane, di assenza di un nocciolo, come dire, di una media di taglia di impresa che consenta ai nostri imprenditori di andare agevolmente su mercati lontani, difficili e costosi come questi, dove in una prima fase bisogna molto investire prima di poter raccogliere. E qui è importante accompagnare queste imprese, le nostre imprese su questi mercati, perché dobbiamo recuperare rapidamente, abbiamo tutte le condizioni per farlo. Ci può aiutare la ristorazione italiana, che è molto forte anche in queste aree, molto forte e crescente. Il rapporto tra la ristorazione italiana, la gastronomia e il vino italiano è un rapporto che ci può aiutare a vincere anche in questi casi la battaglia. Però c'è un lavoro da fare anche lì.